A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, Laura Vanossi, redazione, Fabio Cantadore in regia. Il GR vi ha lasciati con il fiato sospeso. Allora vi dico che per la Juventus ci sarà lo Sturm Graz austriaco, per in Europa League naturalmente, per il Napoli gli svedesi dell'Helsingborg e per il Palermo gli sloveni del Maribor. Non mi sembrano avversari impossibili. Più duro il compito da Sampdoria, avete sentito, Werder Brema, di Dzeko, di Ozil, avversario di livello. A grande richiesta e con ancor più piacere, almeno una volta ogni estate, ormai un must, A Tempo di Sport riceve l'unica zanzara che mi sta simpatica, Giuseppe Cruciani. Buon pomeriggio, ciao, ciao Giuseppe. Come vedi questo sorteggio? Beh, affascinante, tu la vedi facile, l'hai messa facile per tutte e tre. Parliamo solamente dell'Europa League, poi parleremo del Werder, però il calcio sloveno è in crescita, dunque credo che tra le tre squadre rischia di più. Poco, sì. Ma rischia il Palermo. Sì, anche se adesso le squadre italiane non hanno quella scimmia colossale che ha sulle spalle la nazionale italiana di pallacanestro, che contro chiunque giochi perda. Quindi speriamo, io la vedo abbastanza bene questo sorteggio. Europa League, direi che Juventus, Palermo e Napoli dovrebbero tranquillamente arrivare al tabellone finale. Notizie della notte: l'Inter ha pareggiato 2-2 a Dallas. Mirito detto in gol, un rigore che non c'era alla fine per il pareggio degli americani. Poi hai visto sui giornali, no? Ronaldinho, abbiamo raccontato ieri noi, sì. Ronaldinho con la canottiera gialla che suona il tamburello al festival sudamericano di Assago. C'erano quelle foto oggi sui giornali e sotto i titoli: potrebbe andare al Galaxy, ci sono i soldi, eccetera. Thiago Silva, ultimo assalto al Real Madrid. Oggi il Milan per la milionesima volta ha smentito tutto. Il Milan riconferma l'assoluta incedibilità dei propri giocatori, Ronaldinho e Thiago Silva. E non capisco perché. Thiago Silva, lo capisco naturalmente, sarebbe una follia darlo a Real Madrid, ma Ronaldinho, deve esserci qualcosa che riguarda le fissazioni del Presidente del Consiglio, perché diciamo la verità, è un ex giocatore di pallone, un giocatore da Harlem Globetrotters. Ed è un giocatore che non serve tatticamente al Milan, forse serve per l'immagine, per vendere magliette, come amuleto, come simbolo, ma è un giocatore che di fronte a un'offerta pare di qualche milione di euro, dicono 8 dei Galaxy, e di fronte al fatto di poter rinunciare ad un ingaggio molto alto, non riesco a capire le ragioni, che sono forse nella testa del Presidente del Consiglio, nella strategia societaria, di non cedere Ronaldinho ai l'ultimo Galaxy. Simbolo di grandeur. Sì, può darsi che ci siano queste ragioni, ma non sono ragioni tattico-calcistiche, sono ragioni che riguardano appunto cose comunque importanti, come l'immagine di una società, come quello che ha sempre sostenuto Berlusconi. Per carità, le contraddizioni esistono e Berlusconi, come è normale, si è contraddetto più volte. Fino a pochi giorni fa ha detto: Ronaldinho è incedibile, è il nostro simbolo, è ancora il più forte del mondo. Dunque adesso cedere alle Galaxy sarebbe complicato, anche se secondo me è una strada obbligata. Se il Milan vuole arrivare a piazzare un colpo, che sia Robinho, che sia qualcun altro, Boateng in prestito dal Genoa. Boateng in prestito dal Genoa è la fotografia del mercato del Milan, insomma. Credo che sia la prima volta nella storia del Milan, se questo si realizzasse, che un giocatore arriva via Genoa. Sì. Ed è un paradosso che Preziosi possa spendere, Berlusconi no, ma insomma. Senti Giuseppe, oggi nasce l'Italia di Prandelli. Io sono in attesa delle convocazioni come te. Convocherai i migliori senza troppe menate sul luogo e sulla data di nascita. Dicevo nei giorni scorsi, ho detto più volte nei giorni scorsi, a me questa apertura mentale di Prandelli piace. Sono fiducioso per una nazionale che prende un nuovo corso, con anche un bel po' di, insomma, un bel carico di immagine e basta, perché secondo me Sacchi, che ieri ha parlato, Baggio, Rivera, sono esclusivamente un'operazione di marketing. Sono d'accordo con te, non si tratta di personaggi comunque facili da gestire, per cui vedremo nei prossimi mesi poi che incarichi avranno e che incidenza potranno avere concretamente nel corso degli eventi e nelle decisioni che contano, perché poi alla fine la cosa importante è quella. Sacchi ha parlato, ha detto che è un calcio per vecchi, che vuole cambiare la mentalità, che non ci vogliono più tecnici che distruggono il gioco avversario. Mi sembrano naturalmente parole, non è Sacchi che può determinare come una squadra deve essere diretta e come una squadra deve giocare. Al di là dell'operazione d'immagine, la cosa positiva saranno sicuramente le convocazioni di Prandelli, che risentiranno sicuramente delle convocazioni agostane, cioè non bisogna attendersi da Prandelli segnali ci saranno sicuramente, ma non sono ancora le convocazioni pesanti, importanti, che ci saranno per le prime partite di qualificazione all'Europeo. 800 24 00 24, naturalmente numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. C'è chi ti chiede di parlare di maratona, Fabrizio. Non adesso, di maratona, non oggi, anche perché ad agosto ci si allena poco e si fa grande fatica. No, senti questo a proposito di amichevoli e di nazionali. Per l'amichevole di mercoledì contro il Messico, Del Bosque ha convocato ben 7 giocatori del Barcellona che non hanno neanche ancora cominciato la preparazione. Lunedì avrebbero dovuto fare le visite mediche con i club e domenica giocare forse la Supercoppa. Invece c'è un contratto tra la Federazione Spagnola e quella messicana, devono giocare almeno il 60% dei giocatori mondiali. Quindi arrivano dalle vacanze, vanno in Messico, no? Scendono dall'aereo, giocano alle 3 del pomeriggio in altura e in teoria 72 ore dopo dovrebbero giocare un'altra partita organizzata dalla stessa federazione. Beh, è evidente che il calendario internazionale deve essere rivisto. Questa amichevole, le amichevoli che ormai sono a livello mondiale, le amichevoli agostane di metà agosto sono una follia senza senso. I giocatori sono appena tornati dalle vacanze, si stanno preparando con le squadre, che senso ha costringere i giocatori a fare migliaia di chilometri in aereo, fuso orario, possibilità di infortuni? Vedi il caso di Robben con il Bayern Monaco, giustamente imbufalito. Io credo che questa cosa vada cambiata, non c'è bisogno, e al massimo si devono scegliere amichevoli a portata di mano, come fa l'Italia. E insomma sono soldi, Sì, ma il Messico, la Spagna e il Messico è un controsenso. Andare a giocare a metà agosto in Messico per giocatori che si allenano in Europa, davvero è una cosa che sbaglia Del Bosque a portare 7 giocatori del Barcellona. È vero che ci sono i contratti, ma i contratti si possono anche rivedere. Sì, ma hai sentito anche di Messi che ha dovuto giocare a beneficio di sponsor, sennò quelli non pagano, quindi bisogna fare i conti anche con questo tipo di discorsi. Sì, bisogna fare i conti, ma ripeto, secondo me andrebbero semplicemente cancellate le amichevoli di agosto. Si possono fare degli stage, al massimo le amichevoli devono essere fatte in un raggio di 500-600 km, le europee con le europee, eccetera, eccetera. Zanzara da Tempo di Sport, Giuseppe Crugeni qui con me. Tra poco cominciamo anche a parlare con gli ascoltatori che intanto mandano messaggi tipo questo: ma vi rendete conto delle figure che fate? Avete sempre invocato un coinvolgimento nella federazione di Rivera e ora che dopo decenni si avvera siete scettici. Galassia Fiat non ha limiti, questo scrive un ascoltatore anonimo. Non mi ricordo di aver invocato il coinvolgimento di Rivera in federazione, può anche essere come presidente federale, mi piacerebbe, con questo ruolo che secondo me è una scatola vuota perché dentro non c'è nulla, perché queste sono cariche che erano state pensate e immaginate per dare delle pensioni a benemeriti. Io non ricordo nemmeno che ruolo abbia esattamente Rivera, non riesco nemmeno a ricordarlo. Capo del settore giovanile scolastico, vedi tu, cosa può fare a capo del settore giovanile scolastico? Capo del settore giovanile scolastico, già il ruolo di Sacchi è comunque tutto da definire. Poi lì conta molto la personalità, il modo in cui affronti il lavoro, se lo fai seriamente o lo fai per beccare qualche soldo, anche se sa che in questo caso non ne ha bisogno, perché è coordinatore delle rappresentative, sì, dall'Under 21, sì. Dall'Under 21 in giù. Già a me un qualcosa che è coordinatore, no? È un po' lontano. Mi sa di specchietto per le allodole, però ripeto, poi bisogna sempre vedere che poteri si hanno, quanta passione ci si mette in queste cose, quanto ti ascoltano, cosa decidi. Quanto potere hai. È tutto da vedere. Il presidente federale è stato sicuramente molto abile, perché era in grande difficoltà dopo il Mondiale, aveva bisogno sicuramente, al di là di Prandelli che era già deciso prima, di dare un'immagine nuova, e da questo punto di vista certamente il triplice colpo, Rivera, Baggio Sacchi, è positivo. Però bisogna considerare una cosa, si era parlato anche di Maldini, no? Non credo che sia approdata a nulla la vicenda con Maldini. Risulta di no. Beh, insomma, adesso abbiamo praticamente Riva, che resta nei ranghi della federazione, Rivera, Albertini, Baggio. Un po' troppo. Sì, un po' troppo. Sono un po' tanti. Allora, ieri sera, Giuseppe, magari entrerà anche Maldini tra qualche mese, non so con che ruolo, forse aiutante. Sei aiutante consulente di Sacchi, non lo so. magari anche io e te tra un po'. Allora, ieri sera sono andato a casa presto, sono andato a correre, ho detto alle 7:30 c'è la nazionale di basket, la voglio vedere. E io, ovviamente, nella mia infinita disinformazione, non ho neanche immaginato che a quell'ora sulla Rai ci fosse il nuoto sincronizzato, con tutto rispetto, in questi europei di nuoto, poi dopo il nuoto sincronizzato gli imperdibili mondiali di tiro a volo, della nazionale di basket niente. Uno dei pochi italiani ad aver visto questa partita, Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Tiro a volo e nuoto sincronizzato, niente Italia-Lettonia, ma forse visto il risultato è stato meglio così o no? Sì, direi di sì, forse è stato meglio così, anche se stavolta non c'è stata la produzione neanche della televisione lettone, quindi diciamo che per una volta la Rai avrebbe dovuto andare in Lettonia a prodursi la partita e non l'ha fatto. Non dico che non sia una cosa, visto che sono costi comunque ormai modesti, però per una volta forse non è tutta colpa sua. E in compenso i telespettatori italiani non hanno visto l'Italia perdere la seconda partita delle qualificazioni europee di un punto contro una squadra sicuramente interessante, di ragazzi molto, molto svegli e che anche con un futuro, ma che al momento avremmo dovuto battere, almeno sì. Questi. Sì, sì, ma sintetizzando quello che tu oggi scrivi, insomma, non possiamo dire, pur in ginocchio sui ceci, che queste squadre che ci battono tutte le volte siano più forti di noi, no? Perché non è così, perché non è così, a meno di non voler forzare le cose. La verità è che l'Italia è una squadra, come dicevo prima, che ha un enorme gorilla sulla spalla, che diventa sempre più grande e pesante ad ogni partita che passa, e non riesce ad invertire questo trend negativo, nemmeno Harry Potter Pianigiani ci è riuscito, e non so che cosa possa servire a questo punto. Guarda, è veramente difficile perché l'evidenza dice che non possiamo essere inferiori a queste squadre, perché se no invece di giocare nella NBA e guadagnare 10 milioni di dollari l'anno, Bargnani ci giocherebbe Kraft o uno dei lettoni che abbiamo visto stasera, oppure tutti gli allenatori di tutta Europa prenderebbero quei giocatori lì nelle loro squadre, che invece di lasciarli nel Ventspiel o sì, nelle squadre di riga. Quindi questa è una considerazione molto terra terra, ma secondo me il problema è che, come dicevi tu, è un problema molto psicologico, con tanti altri problemi tecnici legati, tipo che abbiamo una taglia fisica certamente non all'altezza delle grandi squadre, ma queste non sono grandi squadre, che abbiamo dei problemi a mettere assieme soprattutto difensivamente alcuni giocatori che abbiamo per le loro caratteristiche, ma questo, ribadisco, fino a quando giocavamo contro la Serbia o la Francia o queste squadre qui aveva un senso, qui un po' meno, sì. Quindi non so, anche questo fatto di dire sempre che gli altri sono tutti fortissimi per metterci un po' le mani avanti, secondo me non fa altro che accrescere questa paura che ci, non che questo senso di frustrazione, delle cose a caso che siamo fortissimi avremmo risolto la situazione, però certamente la squadra è molto tesa, gioca male, giocatori che in campionato comunque fanno delle buone cose passano i tiri, cioè non è che sbagliano i tiri, li passano proprio, cioè se sono liberi non tirano, e là si coprono dietro Bellinelli e Bargnani, e che però ieri Bargnani ha fatto una grande partita, e se non riusciamo a vincere in Lettonia con una grande partita di Bargnani purtroppo siamo messi male. Quando possiamo vincere contro chi? Giuseppe, ti sei fatto un'idea sulla crisi di sport di squadre italiane e su quella della nazionale di basket in particolare? Io seguo molto poco il basket e stavo seguendo con grande attenzione il ragionamento di Luca. Secondo me c'è anche una considerazione da fare. Luca diceva all'inizio abbiamo giocatori che se giocano nella NBA non si capisce perché poi non rendano, ma Luca sa meglio di me che la nazionale è un discorso completamente diverso, anche a livello di motivazioni ci puoi mettere tutti i pianigiani che vuoi, che tu hai chiamato Harry Potter, però credo che queste motivazioni contano molto e non riguarda solo la nazionale italiana. Adesso io non so fare altri esempi, ma esisteranno esempi nel basket, Spagna a parte, in cui magari i singoli giocatori messi nei campionati, nei rispettivi campionati, sono dei grandi giocatori, poi quando vanno in nazionale psicologicamente non rendono più come come nelle squadre di club. Per cui credo che ci sia soprattutto un problema psicologico, non c'è dubbio. Certo che non è bastato l'entusiasmo di Pianigiani, non è bastata una nuova ripartenza, sono troppe le sconfitte e gli appuntamenti mancati sul groppone da troppi anni per riprendersi velocemente, dunque non ci si poteva aspettare granché ancora. No, però non riesco a capire da dove si può ripartire, Luca. Allora, abbiamo provato a cambiare l'allenatore, abbiamo provato a cambiare l'organizzazione della squadra, che adesso sicuramente ha un altro passo attorno, proprio organizzativo, di personale che lavora con la squadra. Abbiamo preso quello che viene considerato il miglior preparatore atletico, non solo qui da noi, ma è vero anche che lavora negli Stati Uniti, nell'NBA. Abbiamo fatto tutta una serie di cose di contorno per non avere alibi, per non avere scuse, per non dire abbiamo sbagliato perché eravamo o più stanchi o ci eravamo preparati meno no, quello abbiamo cercato di farlo. Ripartire, ovviamente bisogna ripartire da una vittoria, da un paio di vittorie che ci tirino un po' su. I ragazzi ci danno, l'entusiasmo quest'anno c'era, e lavorano, ce la mettono tutta, paradossalmente più lavorano, e basta vedere gli allenamenti, più lavorano, più sono quasi, più il carico sembra pesante proprio sulle loro spalle, perché si vede che sono tesi anche quando lavorano, e loro reagiscono lavorando ancora di più, ma questo non li aiuta. Certo, avremo bisogno, però in questi casi quasi sempre c'è bisogno di una o due persone che evidentemente per caratteristiche mentali più che tecniche, non sono i nostri due ragazzi dell'NBA, che si prendano questa squadra sulle spalle e se la portino davanti e le tolgano un po' di paura. Però si può dire una cosa, Luca, che forse dopo queste prime due partite di qualificazione la colpa non era tutta di Recalcati, insomma, no? Questo si può dire? No, certo che si può dire, ma era evidente, come evidente il fatto che fare il CT è un lavoro che, siccome noi diciamo che in Italia ci sono 55 milioni di CT, ed è vero, è un lavoro molto particolare che ha bisogno di spalle molto larghe, come dicevi tu prima. Non parli a professionisti, parli a uomini, parli a giocatori che non guadagnano una lira, che quindi devono avere dentro la forza di passare un'estate a lavorare duro, e quindi è molto difficile. Io resto dell'idea che fosse necessario un cambio alla guida della nazionale, ma che non fosse, che non la, tra virgolette, la colpa non fosse tutta di Recalcati, era talmente evidente che non c'era bisogno di questa doppia sconfitta. Il problema è che c'erano logorati dei rapporti e si pensava che il fatto di cambiare allenatore, soprattutto con Bargnani, soprattutto con i nostri giocatori di punta, avrebbe potuto portare dei benefici. Per il momento questi benefici non si vedono, che Recalcati abbia fatto un signor lavoro e che gli ultimi anni i suoi insuccessi siano addebitabili a tante situazioni che non si possono risolvere cambiando l'allenatore, certo. Era evidente e non ci siamo mai sognati di dirlo. Questi risultati, ma che succede adesso, Luca, concretamente, che chance ci sono ancora per l'Europeo 2011? Noi per qualificarci direttamente dovremmo vincere tutte le partite, dovremmo andare a vincere, magari lasciando il Montenegro, che detto così fa ridere, però il Montenegro è una squadra molto forte, è una l'ennesima della ex Jugoslavia che è molto forte, però diciamo per qualificarci dobbiamo vincere in Israele, dobbiamo vincere le prossime partite e dobbiamo arrivare almeno secondi, se no si entra in un girone dantesco dei ripescaggi, che è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che si farà la prossima estate, 6 squadre per un posto, dove però l'anno prossimo è vero che tutti dicono ma l'anno prossimo partiamo con una base di quest'anno e quindi con la possibilità di fare meglio di quanto non stiamo facendo quest'anno, però sono sempre quelle classiche situazioni dove perdi una partita, ti crolla il mondo addosso, il tuo americano non lo fanno venire, perché quindi ti trovi magari... Sei rovinato un'altra volta fuori dagli europei, fuori dalle Olimpiadi fuori da tutto un'altra volta. Luca, grazie, alla prossima. E arrivederci. Grazie Luca Chiabotti. Dunque, ascoltatori, che ringrazio per la pazienza, Manuele da Udine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Io volevo fare due osservazioni riguardanti il calcio e il basket. Sì. Sentivo prima che parlavate della nazionale spagnola, di Messi, che diciamo era un po' irritato del fatto che non aveva il tempo per riposare, per fare le partite, insomma. Sì. Sì, volevo dire, sembra un po' eccessivo cambiare calendario per una cosa del genere. Teniamo conto che ci sono giocatori tipo in NBA che giocano un giorno sì, un giorno no. E, sì, ma qui è una questione un po' diversa, è una questione di contratti per amichevoli, e si arriva al paradosso di giocatori che arrivano dalle vacanze, non hanno fatto nemmeno un giro di campo di corsa e vengono mandati in campo per contratto, per obblighi contrattuali, in un amichevole che si gioca dall'altra parte del mondo alle 3 del pomeriggio. Questo è senz'altro una delle più grandi forzature che io ricordi, in anni in cui le forzature sono tantissime. Franco Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi devo ancora riprendere dalla notizia che abbiamo perso anche contro l'Estonia. È stato un sconvolgimento per me. Non me sarei mai aspettato una cosa del genere. Sì, nemmeno io. Io volevo dire un'altra cosa, ma velocemente volevo dire che la mia idea sarebbe quella di naturalizzare due o tre americani, perché siamo nulli ormai nel basket. Prendiamo due o tre americani, li naturalizziamo e facciamo certamente meglio di quegli scarsissimi italiani che abbiamo noi, perché ho visto la partita contro Israele. Ho capito, però insomma anche questo discorso dei passaporti che sono in vendita a bassissimo costo in vari paesi come Macedonia, come insomma, paesi dell'est europeo, insomma io sono dell'idea che quelli che hanno le carte in regola per la legge italiana possano giocare. Quanto al commercio dei passaporti invece credo sia un fenomeno da rivedere, ma a livello complessivo, non qui, no Giuseppe? No, sì, quando si tratta di far giocare in una nazionale di calcio persone che hanno già il passaporto italiano e che hanno comunque ascendenti italiani e che hanno tutto il diritto di giocare in nazionale perché sono italiani a tutti gli effetti come me e come te, allora va bene, ma francamente vedere nella nazionale italiana uno con un cognome americano che non ha alcuna relazione con l'Italia se non aver giocato qui un paio di anni, tre anni, mi sembra una follia. Spero che non passi, e dove è passata questa storia credo che la Federazione Internazionale dovrebbe intervenire in maniera molto dura. Sì, è un momento particolarmente insomma, caldo per questi discorsi, perché è tutto un fiore di giocatori anche nel calcio che vanno in paesi dell'est europeo dove il passaporto è facile, perché è chiaro che avere un passaporto comunitario o un passaporto europeo vuol dire quattrini. Sì, ripeto, quando la cosa ha un senso che riguarda la storia, i legami, la madre o il padre, si può accettare tranquillamente. Sì. Già il caso di Amauri è molto limite. È un caso limite, perché diventa italiano perché la moglie... Parlo di Amauri perché sembra essere l'unico... Perché la moglie è brasiliana, ha il passaporto italiano. Esatto. Senti, hai voglia di fare due chiacchiere con un giocatore che ha appena pescato il Werder Brema? Daniele Gastaldello, a Sampdoria. Buongiorno Daniele, grazie. Buongiorno a voi. Werder Brema, prima impressione? È una squadra difficile, come tutte le altre. Sarà una partita molto, molto tosta, perché appunto avevamo un sorteggio difficile, ci è capitato il Werder e ecco, noi ce la metteremo tutta, perché appunto vogliamo continuare il nostro sogno che abbiamo cullato l'anno scorso. Senti Daniele, io credo che sia la squadra forse più dura di quel lotto lì, forse le più dure erano proprio Werder Brema e Zenit. Cosa vi siete detti con i compagni subito dopo il sorteggio? Ci siamo detti che sta tutto a noi, adesso la squadra l'abbiamo pescata, abbiamo visto chi affronteremo e adesso la palla passa a noi, perché appunto siamo noi che scendiamo in campo e noi che siamo i giudici del nostro futuro. Cassano cosa ha detto? Cassano ha voglia di giocare, lui ha voglia di giocare e soprattutto di passare il turno come tutti quanti noi, perché appunto per la maggior parte di noi è la prima volta ecco, che affrontiamo un preliminare, per cui abbiamo la voglia di di arrivare carichi e di vincere, insomma, per passare nei gironi. Di sentire quella musichetta famosa nelle orecchie. Ma è vero che è così, che è vero che è così magro e così posato adesso Cassano, Daniele, ora che sei sposato? Sì, è in forma, è in ottima forma, meglio per noi. Si aspetta la convocazione oggi, sì, immagino, no? Eh beh. Penso di sì, anche perché appunto sarà meglio, perché come giocatore no. Penso che in Italia ce ne abbiamo pochi di campioni così, ecco, con le sue doti, con le sue qualità, per cui sono sicuro che Antonio saprà dare una grossa mano a noi prima di tutto, ma soprattutto all'Italia. Senti, volevo chiederti un'altra cosa. Sì. Il ritorno a Genova è un piccolo vantaggio oppure a questi livelli è ininfluente? Ma io sono convinto che sia un vantaggio, però dipende soprattutto dal risultato d'andata. Se siamo bravi a tornare a casa con un pareggio senza un grosso passivo, siamo sicuri che il nostro pubblico intorno ci spingerà a fare una grande impresa, però appunto dobbiamo andare lì per la prima partita e giocarci senza paura, senza timore, perché appunto un risultato, un passivo pesante ci penalizza anche per la partita di ritorno. Carlo, il Verder è una squadra che ha fatto molto bene, squadra che ha fatto bene negli ultimi anni delle coppe, ha avuto sfortuna in Champions quando è stata ripescata in Europa League. La squadra di tradizione internazionale. Sì, di tradizione internazionale, una squadra complicata da affrontare, non ha cambiato gioco negli ultimi anni, una squadra che gioca molto in attacco, che subisce anche gol, ma ne fa molti. È una squadra olandese come sì, tipo di gioco. Pericolosa. Io credo che ritorno a Genova, soprattutto perché il 18 ancora le persone sono in vacanza, sì. La gente in vacanza, ci sarebbe stato pubblico, sia importante per riempire. 24 tutto esaurito, secondo 24, me. 24, Al Ferrari. Che dici, tutto... Daniele? Sì. Noi lo speriamo tanto e sono sicuro che anche qui in ritiro la gente c'è stata molto vicina e appunto aspetta questo evento, perché appunto è da tanto che i nostri tifosi lo aspettano e sono sicuro che riempiranno lo stadio, che ci spingeranno appunto a questa impresa. Noi dobbiamo dare il massimo, perché appunto, come ti dicevo, abbiamo cullato questo sogno tutto l'anno scorso, siamo arrivati in quarti, abbiamo fatto una grossa impresa, però non vogliamo buttare via tutto quanto in due partite, per cui ecco, da parte nostra ci sarà il massimo impegno per raggiungere i gironi. Per andare a sentire la musichetta per tutto l'autunno, insomma. Grazie Daniele, bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, io trovo una follia questa invenzione di Platini. Capisco che possa essere servita. Quale? Quella del preliminare, dici? Sì, il modo di fare il preliminare, che è cambiato, lo sai, dall'anno scorso, se non da due anni fa. Cioè si mettono insieme i non campioni, sì, anche delle nazioni più titolate, e invece i campioni, per dar modo ai campioni di una nazione, che so, come l'Austria, di allargare i confini della Champions League. E dunque tu vedi questo tabellone dei preliminari di Champions che è un po' assurdo, perché l'ho visto prima, hai un Sampdoria Werder o un Dinamo Kiev Ajax da una parte, che mi sembrano quelle più equilibrate, e poi dall'altra un'austriaca contro una, una slovena, eccetera eccetera, perché c'è l'interesse da mandare avanti il Cluj di turno, comunque. Esatto. Squadre che se no resterebbero per tutta la loro esistenza ai confini dell'impero. Sono contento perché il mio Tottenham giocherà con una squadra sulla carta. C'è te col Tottenham? Io sono tifoso del Tottenham. E adesso i cinesi che prendono Liverpool come li vedi? Il governo cinese che vuole mettere, magari venissero i cinesi in Italia, ci sarebbe da domandarsi perché i cinesi non investono in Italia. Sono cinesi, ma mica scemi, esatto. Dove viene a fare l'Italia? Investono dove conviene, dove le tasse sono basse. Ma dove le tasse sono basse? Dove e dove ci sono gli stati di proprietà, eccetera, esatto, eccetera. Tottenham contro Young Boys. Facile, già fatta. Beh, scritto, dai, scritto. Abbastanza. Luciano Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto vorrei farvi notare che se anche voi vedete il parallelismo che c'è tra la nazionale di basket italiana e quella di calcio. Squadre infarcite di giocatori stranieri, pochi italiani, sempre di meno. Nelle squadre di club di calcio, mi riferisco all'Inter, 9 su 10 o 10 o 10 su 11 sono praticamente di altra nazionalità, e questo produce il fatto che non ci siano più ricambi. i nostri ultimi campioni sono tutti datati un paio d'anni fa, questa è la prima cosa. Secondo, se avete notato, le squadre tipo il Barcellona che forniscono i 7/8, i 7/11 dei giocatori delle squadre di calcio, sì, danno i giovani alle società minori, alle junior, alle B, sì, insomma, in maniera tale che possono maturare, cosa che in Italia non avviene per nessuna società di calcio. No, verissimo, e neanche di base. Questo è vero, un discorso che abbiamo fatto tra l'altro anche ieri. Uno dei problemi è quello di campionati di sviluppo che non sono all'altezza del campionato primavera, un torneo di bambini. Questo è senz'altro uno dei problemi. Si fa un gran straparlare di giovani, i giovani devono giocare, sì, però devono essere anche bravi. Mi sembra che non siano usciti dei grandissimi talenti nelle ultime stagioni, un ricambio di generazione esauriente sia nel calcio che nel basket, perché non basta dire devono giocare i giovani. I club non sono enti di beneficenza, devono giocare i giovani, ma quelli bravi, che poi siano italiani o di altre nazionalità, per un club che è un'azienda professionistica non fa differenza. Il problema è che in Italia ci sono troppe società professionistiche, secondo me, e dunque se non si tagliano le società professionistiche, se non si riducono, cioè in Spagna non esiste la Serie C, se esiste è un qualcosa di inesistente, la Serie B è anche, insomma, la Serie B spagnola per esempio non ha quel peso a livello di soldi, di società. L'Italia è un paese di campanili, dove ogni città vuole avere la sua squadra e punta ad arrivare in Serie A, sì, e si sogna di arrivare in Serie A, magari si fallisce due anni dopo o si va in Serie C tre anni, sì, dopo essere retrocessi dalla Serie A. Il problema è quello, ha ragione l'ascoltatore, bisogna creare le condizioni perché i giovani possano giocare ad alto livello e non nei campionati primavera. A me stupisce leggere nelle notizie di mercato solo ed esclusivamente nomi stranieri, cioè non ci sono trattative per portare, importanti per portare giocatori che hanno giocato in Serie B. Faccio un solo nome, no? Lancone è fallito, ha un attaccante che segna caterve di gol negli ultimi anni, si chiama Mastronunzio, perché non potrebbe giocare in una società di Serie A? È finito al Siena di Conte, per carità, squadra degnissima, però Serie B. Ci sono giocatori che segnano, che potrebbero tranquillamente giocare in società di Serie A e magari si preferisce prendere il... Sì, vengono trascurati, tralasciati e lasciati nel calcio minore. Giampiero Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho potuto vedere soltanto la partita contro Israele. Sì. Perché l'altra non sono riuscito a capire dove l'hanno trasmessa. Da nessuna parte. Ecco. E quindi ho visto dei giocatori, quelli italiani, senza voglia di vincere, senza rapidità, senza difesa. Basket è tutto questo, secondo me. Vero, vero. Sapere che cosa ne pensate. No, vero, vero, però torno a ripetere, l'Italia in questo momento gioca con la maglietta di piombo, i pantaloncini di ghisa e le scarpe di ferro, hanno una tale pressione addosso per cui perdono anche con squadre più deboli come sono di fatto Lettonia certamente e Israele pure, quindi... No, ma... Proprio discorso... ho visto poca voglia di vincere. Ma lei sa meglio di me come... Ma non è questione di voglia di vincere ce l'hanno, però lei sa meglio di me come la testa faccia una differenza enorme, sì, nello sport, e in questo momento l'Italia è una squadra che gioca da sconfitta, quindi parte sconfitta e deve ribaltare questo trend e non ci riesce. Il senso è questo, lo dicevamo prima con Luca Chiabotti. Enzo Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto sono felice di sentire Cruciani in questa trasmissione. Anch'io. Lo ascolto sempre la sera quando rientro a casa, quindi sì, è un piacere sentirlo anche qua. Allora, io sto a Firenze, cioè ci vivo da tanti anni e ho visto arrivare a Firenze Prandelli. Non sono tifoso della Fiorentina nemmeno del pallone, però sono un nazionalista e tifoso della nazionale. Sono felicissimo che Prandelli è andato alla nazionale, mi auguro solo che non facciano giocare in nazionale gli sponsor. Detto questo, penso capirete cosa voglio dire, perché Prandelli è uno che costruisce giocatori giovani, anche ruderi, anche roba da buttare via, la riporta a essere, insomma, qualcosa, un personaggio, comunque a dargli fiducia in se stessi. Sì. Mi auguro per Prandelli il meglio e che non gli portino in casa veramente gli sponsor, perché serve solo il calcio, sì, non serve altro. Speriamo che non siano neanche tanti ruderi da ricostruire. Intanto abbiamo qualche problema sulla fascia sinistra, dicevamo prima. Giuseppe. Sì, leggo che potrebbe essere convocato Molinaro, sarebbe una cosa buona e giusta la convocazione di Molinaro, che è un giocatore l'anno scorso trascurato, eppure uno dei pochi giocatori italiani ad essere andato avanti in Champions, credo che abbia fatto gli ottavi con lo Stoccarda e poi eliminato da Barcellona. è un testardone, non è certamente un giocatore giovane. Vedremo se sarà convocato, ma potrebbe essere una soluzione sulla fascia sinistra. I consensi per Prandelli sono molto trasversali. Non ho da mesi, non, da quando è stata ufficializzata la notizia prima del mondiale, non ho sentito nessuna voce contrastante sul nome di Prandelli. Beh, Firenze, per esempio, non ha mai avuto un grande amore per la nazionale. Per vari motivi. Storicamente. Questo potrebbe essere il momento buono per una riconciliazione, anche perché la tifoseria della Fiorentina in generale, Firenze non ha vissuto come un trauma la partenza di Prandelli, cioè è rimasta molto attaccata a questo allenatore, dunque ci sono tutte le premesse per un nuovo inizio tra Firenze, dove la nazionale di solito si allena, sì, e la nazionale italiana. Questa storia spero che non gli diano fastidio gli sponsor. Non l'ho capita questa cosa. Anch'io, appunto. Gli sponsor, forse l'ascoltatore intendeva i giocatori sponsorizzati da qualcuno, non gli sponsor, o comunque gli sponsor che spingono qualche giocatore, non lo so a chi si riferisse. Ma sembra che i discorsi di Prandelli siano ispirati a una grande libertà, invece, a meno i discorsi di presentazioni, le dichiarazioni di intenti. Ma sì, senza tabù, senza idiosincrasie, senza quelle fissazioni tipiche, spiace dirlo, del Lippi dell'ultimo Lippi, sì. Francesco Pistoia, buongiorno. Pronto, buongiorno, salve a tutti. Salve. Una cortesia, sentite, soltanto questa poi riflessione. Nella nostra nazionale di pallacanestro ho visto giocare Carreretto, che è partito in quintetto, quando a Siena penso non ha mai giocato quest'anno, pochissime volte. E lo stesso Datome, per cui Tenisani non è che sia stato un grande estimatore, in quanto l'ha mandato via da Siena, mandando da Roma, e anche lì mi sembra che anche lui giochi anche tanto. Mentre vedevo stamattina sopra il giornale che si fa tanta festa in Italia, come un centro come Renti è stato venduto a Verona in Serie A2, un prospetto di 23 anni, che qui si continua a chiamare prospetti, ma questa gente ha bisogno di dover giocare in squadre che contano. Io una cosa, i giocatori che ci sono questi, insomma, poi vengono anche presi in funzione del gioco che si vuole fare, quindi io capisco la convocazione di Carraretta, anche il fatto che giochi in quintetto, eccetera, eccetera. Quanto al resto, invece, una cosa che io non capirò mai è perché in Italia a 23 anni un giocatore è giovane. È l'unico posto al mondo dove uno a 23 anni è giovane. Ma io non so i termini di paragone col basket. A 23 anni nel calcio non si è più giovane, sicuramente. Però Girardino continua a essere chiamato in telecronaca il giovane centravanti della Fiorentina. Ormai non più, credo. L'ho sentito non molto tempo fa. Sicuramente ne aveva 25, se non 26. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Senta, io leggo sul giornale sempre più spesso questa notizia del fatto che il Genoa sta comprando Boateng per poi prestarlo al Milan, che lo trovo paradossale, cioè fino a qualche tempo fa erano le grandi squadre che compravano i campioni e li mettevano, come dire, a maturare nelle squadre provinciali, adesso si è ribaltato tutto. E questo dà un buon segnale di come, vuol dire, si è ridotto il Milan, perché prima negli scorsi anni si faceva tanto sbandierare, abbiamo comprato i giovani talenti, Zigoni, Beretta, eccetera, e vengono dati sempre alle squadre minori e si confermano i contratti ai vari Inzaghi, che per carità, bravissimo ragazzo, grande giocatore, però se ha un contratto firmato vuole anche giocare, quindi non lascia spazio agli altri giocatori. E questa cosa qua ridere. No, fa tutto molto ridere, però il discorso, se il Milan ha questi giovani, adesso c'è Merkel di cui si parla benissimo, però se ha questi giocatori, l'anno scorso ha preso Zigoni, quest'anno l'ha mandato da un'altra parte, vuol dire che così fenomeno non era. Ma la cosa di Boateng è abbastanza strana, perché si sa che Boateng ha rifiutato la Lazio, non si capisce il motivo per cui il Genoa lo prenda e poi non lo prenda per sé, forse perché Gasperini ha detto che non gli serve, non so, invece serve a Milan, per cui già c'è un mistero, cioè lo prendi ma non lo fai giocare subito nella tua squadra e lo devi dare via. Il Milan, io posso capire che il Genoa avesse dei rapporti già instaurati sia col giocatore che con il Portsmouth, che è la squadra dove gioca adesso Boateng. Dunque il Milan si è magari inserito in questa cosa e a quel punto deve per forza gestire una situazione preesistente di rapporti tra il Genoa e il Portsmouth. Però certo è paradossale, insomma, ha ragione l'ascoltatore, una volta erano le squadre grandi e tuttora il Genoa ogni tanto fa queste operazioni, no? Si fa prestare dei giocatori, è successo nel caso Palladino, è successo nel caso Criscito. È la prima volta che una grande squadra prende in prestito, se poi questo avverrà, perché non lo sappiamo. Un giocatore dal Genoa. Un giocatore dal Genoa. Sono due misteri, questo e il fatto che il Genoa non lo vuole tenere questo giocatore, almeno non lo vuole tenere per il primo anno, per i primi mesi. Magari Gasperini ha detto: questo giocatore vuoi fare un investimento, fallo, però in questa squadra no. D'altra parte, sì. L'altro giorno Gasperini ha detto una cosa molto interessante, che era: spesso i presidenti comprano i giocatori non funzionano alla squadra, ma come investimento per valorizzare, per fare quindi dei quattrini, sì, che è qualcosa che ci sta comunque. Sport e motori. Per chiudere, Giuseppe, ti presento un'amica, si chiama Alessia, come te. Tu lavori qui a Radio 24, l'hai inviata dalla Gazzetta dello Sport. Cognome lo stesso, Cruciani. Ciao Alessia. Ciao, piacere. Piacere, piacere. Allora, fino a poco tempo fa, quando uno andava a vedere l'albo dei giornalisti professionisti, esistevano due Cruciani. Sì. Anzi no, sì, due Cruciani. Uno è Innocenzo Cruciani, che è un giornalista, credo ancora, se non è in pensione, del giornale radio della RAI, con cui non ho alcuna parentela. Mi hanno sempre chiesto anche a me se ero parente, ma non... Esatto, di Innocenzo ti chiedevano, no? Sì, sì, parente, sì, ma mai conosciuto. Nemmeno io. E nemmeno io e Alessia siamo parenti. E poi un Alessandro Cruciani, che invece sì, è parente mio, ed è il fratello di mio nonno, è morto naturalmente, e che è però un giornalista del Touring Club italiano, figurati un po', si occupava di storia dell'arte negli anni 60, negli anni 50. Beato lui. Beato lui. Dunque siamo, come dire, no? Siamo delle eccezioni, siamo una rarità, i Cruciani giornalisti sono pochissimi. Dopo questa carambata volevo chiedere invece ad Alessia di argomento per cui scrive motori. È l'estate di Lorenzo, di Rossella Ducati, di Biaggi che torna campione sebbene in Superbike, di De Puinè. Tutto tra pochissimi giorni succederà, perché Lorenzo campione non ancora, ha un grandissimo margine, praticamente solo lui può perdere questo mondiale. Tra una settimana si corre a Brno in Repubblica Ceca e vedremo se Valentino Rossi ha recuperato la forma, è tornato al 100% come auspica lui, e magari potrà così rendere un po' più vivace queste gare dominate dal suo compagno di squadra e acerrimo rivale spagnolo. E poi lunedì dovrebbe esserci, il giorno dopo, quando ci sono i test, il giorno dopo la gara, dovrebbe esserci questo ormai questa non notizia, cioè il passaggio di Valentino in Ducati per l'anno prossimo. Giuseppe, guardi le moto? Sì, molto più delle macchine, molto più divertente, non c'è paragone. Non c'è dubbio, non c'è confronto. Beh, insomma, tranne le ultime gare in cui... Però... Senza Valentino è un'altra cosa, non c'è dubbio. Senza Valentino è un'altra cosa, ma anche dal punto di vista degli ascolti televisivi. Sì, uno, certo. 1-10. Volevo invece chiedere ancora ad Alessia. De Puinè, dicevo prima, prova a battere Rossi. In pista non ci riuscirà mai, però nel rientro, 26 giorni dopo l'incidente del Sachsenring. Dovrebbe farcela in 26 giorni con una frattura molto simile a quella di Valentino, nel senso... frattura scomposta di tibia e perone, gamba sinistra nel suo caso, non esposta come era quella di Valentino, però comunque 26 giorni come sono veramente nulla. Sì. Poi è divertente, non so se avete visto le immagini di della camera iperbarica. No, lui è quando si è fatto male, lo sponsor del team Cecchinello, il principale Playboy, e quindi si vedeva lui sofferente. Sì, con le coniglietti. Con la coniglietta, che pare sia anche la sua fidanzata dietro, cioè lui con una maschera di dolore, ricoverato in ospedale, assistito da questa coniglietta in body nero e orecchiette da coniglietta, che molti pazienti avrebbero voluto forse trovarsi nelle sue condizioni. Adesso mi do una martellata su un ginocchio. Tutti noi invidiamo il mondo che frequenta Alessia Cruciani. Alessia, grazie. Grazie a voi. Ciao. Giuseppe, sei di casa qui, quando dicono, vuoi. Mi dicono che devo chiudere, se adesso chiudo. Chiudi. Torna pure quando vuoi. Ciao. Sentiamo la prossima volta, stasera con la Zanzara. Laura Vanossi in redazione, Fabio Cattore in regia. Domani è sabato, non ci sentiamo neanche domenica, lunedì alle 2 siamo qui. A tempo di sport.